c'è chimiche sopra i nostri corpi. È una di quelle canzoni ad effetto che ogni tanto metto perché mi piace il cantante, mi piace la musica, mi piace il ritmo, mi piace anche il tema che lui tratta, ovvero le scie chimiche. Manlio Calafro Campano, questo invece è Radio MPA, buonasera ai tantissimi già connessi, anche in streaming, www.radiomepa.it. Se volete intervenire in studio, 0828 99 40 70, questo è il numero per interagire. E allora, serata del mercoledì dedicata al problema, al sociale, e dedicata anche a un tema che dovrebbe essere affrontato spessissimo, non spesso. Io, noi di Radio MPA cerchiamo di approfondire su questo tema, proprio perché siamo particolarmente così toccati da quello che ci sta accadendo. E allora, abbiamo visto che quest'oggi la neve imperversa un po' dappertutto, in tutta Italia, però questa sera, caso strano, proprio sulla mia testa, ho visto che c'è stata una folata di neve a seguire il cielo sereno. Che cosa succede? Nel clima sta cambiando qualcosa? C'è qualcosa di strano? Perché anche parlando, discutendo con le persone più anziane di antica memoria, ecco, anche loro riscontrano che effettivamente c'è qualcosa che non va. Quel qualcosa che non va è determinato e generato dalla mano di qualcuno, sicuramente non dalla natura, o meglio, la natura ha fatto sempre il suo corso, sempre il suo percorso, e evidentemente l'uomo il più delle volte ci ha messo lo zampino. Ma quello che sta accadendo da qualche decennio a questa parte, in modo particolare negli ultimi tempi, quando tante teste, tanti nazi si sono alzati, hanno cominciato a guardare lassù, è qualcosa di aberrante. Abbiamo cominciato a notare queste strane scie che ci hanno detto sono scie di condensa. Gli aerei hanno sempre rilasciato infatti questi fumi dietro, però ultimamente stiamo notando che queste scie non persistono nell'aria, mentre una volta le famose scie che sapevamo noi anche disegnare sui banchi o sui quaderni di scuola si dissolvevano nel breve lasso di tempo. Questo non sta accadendo più, sono scie, probabilmente sono scie che nuociono alla salute. Allora le dobbiamo chiamare per nome e cognome, scie chimiche. E per parlare di questo io introduco un caro amico che da tempo si interessa al problema, ha anche un blog importantissimo che è Tanker Enemy, e che lui oramai la sua vita l'ha concentrata su questo discorso, su questo argomento, bersagliato più volte da tutti i lati, eccolo qui, Rosario Marcianò. Rosario, buonasera. Ciao, grazie per avermi chiamato e buonasera a tutti gli ascoltatori. Benvenuto a Radio MPA, ben ritrovato. E allora, Rosario, argomento scottante, tanti debunker, dopo diremo anche chi sono questi debunker, ti tacciono come persona disinformatrice, sei un disinformatore, uno che sobilla, uno che aizza le masse, uno che dà fastidio. E allora, che succede? Succede che loro ne approfittano in mezzo a tutto questo marasma di informazioni sbagliate, colpiscono anche te, possono colpire me e possono colpire tutti quanti noi, Rosario? Sì, se certi soggetti come il sottoscritto non dessero fastidio, sicuramente passerebbero completamente inosservati dalla gran parte delle persone e soprattutto da coloro che sono probabilmente, anzi direi con tutta probabilità, agenti che servono a sobillare, servono a screditare le persone scomode. In effetti, come spesso insegnano gli strateghi, se un individuo scomodo al sistema non può essere eliminato, va comunque screditato. Quindi il mezzo che hanno queste persone è proprio il discredito. Devo dire che c'è stato un salto di qualità, in quanto che visto che la diffamazione, il dileggio, le minacce non sono servite a niente in questi anni per fermarmi, adesso adoperano la magistratura, per cui ogni due giorni su quattro mi ritrovo una mail che mi comunica che sono state avvisate autorità di vario genere affinché queste intraprendano azioni legali contro il sottoscritto per questo o per quell'altro motivo. Quindi è chiaro che questa gente è proprio alla frutta, perché anziché confutare o tentare di confutare quello che dico, non fanno altro che tutto il giorno che prendermi in giro, insultarmi, minacciarmi e sperare che qualche altro ente, come è stato già fatto, mi quereli e che quindi io venga processato ancora a furia di collezionare processi, secondo loro prima o poi qualcuno mi mette dentro e così Marciano ha finito di rompere le scatole. Ma le cose più strane che si leggono sui vari blog, sulle pagine, su internet, appunto che ti riguardano, ecco, attacchi trasversali, diretti, frontali, ma io ne cito uno su tutti, che poi dall'altro ho anche commentato su internet, pare che addirittura per screditarti ti abbiano iscritto a un sito per soli gay. Ma la cosa, al di là che fa venire da sorridere, perché noi non ci troviamo nulla di strano nelle persone gay, ma tu non lo sei, d'accordo, è appunto perché anche i gay non possono parlare di scie chimiche, magari così appassionarsi a cose interessanti. Schizofreniche, perché tempo fa il loro grande guru, Paolo Attivissimo, che poi è stato colui che all'inizio ha provato a buttare giù dal piedistallo che essi stessi avevano, si può dire, preparato Rosario Marcianò, Paolo Attivissimo fa parte del comitato CICAP, e costui mi accusò di essere omofobo. Adesso di punto in bianco mi iscrivono, o almeno provano ad iscrivermi, perché tante volte poi c'è bisogno anche della conferma quando mi arrivano le mail di comunicazione che ho chiesto l'iscrizione a un sito gay o quant'altro, cercano di iscrivermi a siti gay, quindi devono decidere io sono omofobo o sono gay, oppure come è successo in passato mi piacciono così tanto le donne da iscrivermi a tutti i siti tipo Badoo o altre cose dove appunto le persone sole che non hanno altro da fare cercano donne attraverso i siti web. Vorrei sapere come mi vogliono identificare. Mi hanno dato del pedofilo, mi hanno dato del gay, mi hanno dato del puttaniere, scusa la parola. Prego. Ripeto quello che hanno detto loro, mi hanno dato dell'omofobo, adesso non so, sono anche un truffatore, vedano loro, ma io adesso al momento non ho visto ancora nessuna dichiarazione per quanto riguarda confutazioni rispetto a quello che io affermo, semplicemente Marciano ha creato l'ennesimo falso, questo sanno dire, quindi non hanno argomenti. Io continuo a ribadire che queste attività di guerra climatica, di geoingegneria clandestina avvengono a quote molto basse e quindi in condizioni laddove non è possibile che si formi alcun tipo di scia di condensazione, che essa sia persistente o meno, attenzione, perché molti pensano che quando vedono certe scie non persistenti, pur distinguendo l'aereo nei dettagli, non riescono a ragionare con la propria testa e pensano che si tratti di un aereo di linea che stia lasciando una innocua, che poi tanto innocua non è, scia di vapore acqueo. Teniamo ben conto che gli aerei, anche se non rilasciassero niente di anomalo, comunque producono polveri sottili, nanopolveri di dimensioni attorno ai 2-2.5 pm ed anche meno, che sono il risultato della usura delle parti meccaniche dei jet fan e sono estremamente dannose per il cervello e per le vie respiratorie. Quindi anche queste scie, comunque anche se non ci fossero, vedere aerei a bassa quota significa che comunque si stanno avvelenando e questo si conclama nelle classiche nebbie di ricaduta che spesso poi vengono spacciate per nebbie provocate dal riscaldamento dei condomini oppure dai gas di scarico delle auto e poi invece la gran parte di quello che si vede sulle satellitari è il risultato delle operazioni di aerosol clandestine diuturne, quindi che vengono fatte sia di giorno che di notte per distruggere la nuvolosità naturale che è grande ostacolo ai radar e ai satelliti in banda KA. Faccio un esempio, adesso con grande forza ed energia da regime sta per essere ultimato il MUOS a Niscemi, che è un radar che funziona in banda KA e serve per gestire tra le altre cose i droni che vengono mandati in Afghanistan a bombardare la popolazione civile. Quindi è chiaro che si tratta di sistemi che vengono usati come arma climatica, ma sono sistemi militari, sono operazioni del tutto militari che chiaramente come diretta conseguenza hanno lo sconvolgimento del clima sia a livello locale che a livello globale. Se infatti teniamo conto che il MUOS funziona sulla stessa banda di frequenze delle stazioni ARP, simili ARP che quindi sono dislocate in diverse parti del mondo, ce ne sono almeno una ventina, sono i cosiddetti riscaldatori ionosferici, queste attrezzature sconvolgono le correnti ad alta quota e quindi deviano le correnti a getto che a loro volta gestiscono e presiedono ai cambiamenti climatici, alle situazioni di clima che possono essere grande freddo o grande caldo in zone dove normalmente magari ci sono climi differenti. Quindi è chiaro che siamo di fronte ad operazioni di guerra climatica e io ancora ripeto, non ho visto nessuno che sia riuscito a confutare non solo quello che dico io, ma quello che è stato confermato dai documenti ritrovati, dalle dichiarazioni di persone che hanno dei titoli di studio e che quindi sono meteorologi, sono scienziati, sono ex militari, sono piloti, gente che non sono tutti collegati alla disinformazione, ci sono persone che chiaramente informano nella maniera corretta e non fanno altro che confermare quanto io in questi anni ho acquisito. Noi per esempio ultimamente abbiamo trovato un documento del 1966, statunitense ovviamente, che si intitola In Weather Modification ed è un rapporto che prevede quali sono le conseguenze sul clima in relazione alla guerra climatica così come viene definita nel documento stesso. Abbiamo trovato anche un documento degli anni 50, se non erro del 1953, che dimostra l'impiego del trimetilalluminio come additivo nei carburanti e laddove qualche anno fa, quando io lo avevo intuito, i soliti noti ridevano come dei pazzi a dire questo è scemo, come fa il trimetilalluminio, prenderebbe fuoco e questo e quello, in questo documento militare ufficiale che in base al FOIA, che sarebbe la liberalizzazione di alcuni documenti che erano prima segreti, questo documento non fa altro che confermare che già negli anni 50 si studiava il sistema per additivare il trimetilalluminio al carburante per aviogetti. Il trimetilalluminio come prima conseguenza che cos'ha? La eliminazione dell'umidità atmosferica, che è quella che dà fastidio ai radar e ai satelliti militari, e soprattutto produce una lunga scia. Quindi non ci piove che tutto quello che noi negli anni abbiamo intuito poi alla fine viene confermato dal reperimento di documenti ufficiali. Perfetto. Rosario, dopo voglio ritornare anche sul MUOS perché in questi giorni se ne è parlato, c'è stato anche diciamo una forma di resistenza da parte degli amici siciliani e poi un intervento forte della polizia eccetera eccetera. E però volevo chiederti questo, a parte che dopo stanno arrivando anche tante domande, dopo dovremo dare delle risposte. Ti volevo chiedere soltanto questo, ma dietro a tutto questo progetto, al di là dell'azione militare, ecco, chi ci troviamo? Sappiamo che oltre ai collegamenti militari, oltre al sistema ARP, MUOS, che dir si voglia, ci sono anche delle note multinazionali, mi riferisco alla Monsanto, che stanno lì appunto per poi mettere sul mercato diciamo delle componenti diciamo impegnate nel campo dell'agricoltura resistenti a questi metalli. Ti risulta? Sì, infatti la Monsanto ha realizzato un paio di anni fa una semente che appunto è brevettata e quindi non può essere assolutamente usata senza pagarne le royalty, diciamo così, che resiste all'alluminio. Casualmente noi troviamo quantità infinite, ma non dico noi in quanto Marcianò e Comitato Tanker Enemy, ma gli scienziati nel mondo, i ricercatori, le aziende per la tutela dell'ambiente, i comuni, i sindaci, laddove facciano delle analisi del terreno e delle acque ritrovano grandissimi quantitativi di alluminio nell'acqua e nel terreno. Quindi questo da cosa dipende? Dipende da una ricaduta dall'alto. Se è vero come è vero che la maggior parte degli elementi che vengono dispersi proprio per eliminare l'umidità atmosferica e rendere l'atmosfera elettroconduttiva sono l'alluminio e il bario ed anche il manganese, ma tanto per dirne solo tre su alcuni, potremmo trovare brevetti anche che parlano dello stronzio che è radioattivo ed è anche questo presente nell'acqua potabile e nei terreni, è chiaro che la ricaduta per quanto riguarda le sementi naturali è di entità gravissima, perché nel terreno inacidito da questi elementi, da questi metalli pesanti, le sementi naturali non crescono ed ecco che la Monsanto viene fuori con un brevetto di una semente che casualmente resiste a grandi quantità di alluminio nel terreno e quindi cresce lo stesso. Beh, a testimonianza... non è solo questo, ci sono ormai intorno alla geoingegneria e quindi volgarmente dette scie chimiche o chemtrails, gira un... gira un giro di affari notevole, perché tanto per fare un esempio abbiamo anche Bill Gates che si è lanciato a capofitto nella geoingegneria, quindi nel finanziamento della modifica del clima attraverso la dispersione di nanoparticolato di alluminio o di solfuri ed altre cosette di questo tipo che sono dannose per l'ozono e logicamente dannose anche per gli esseri viventi e per la natura. E come loro, come Bill Gates e tanti altri, si sono lanciati in questo business, tant'è che per esempio l'IPCC, che è il Centro per il Controllo del Clima statunitense, ha dettato i canoni per redigere un documento sul cambiamento climatico dovuto all'aumento del CO2 in atmosfera che provoca questo fantomatico riscaldamento da effetto serra del nostro pianeta, cosa assolutamente falsa, tant'è che a mano che passano i mesi altri scienziati cominciano a dire no, non è vero, la temperatura negli ultimi 15 anni non è assolutamente aumentata, il CO2 incide solo per un 2% rispetto a tutti gli altri gas serra, quindi c'è qualcosa che non va. Che cos'è che non va? È infatti creare il problema e dare la soluzione, e laddove questa soluzione è un business per molti industriali, per molti politici, è un interesse principale e fondamentale per i militari che adottano tecnologie radar e satellitari in alta risoluzione che detestano la nuvolosità naturale, è chiaro che a questo punto ci troviamo di fronte ad un'operazione omnicomprensiva laddove politici, industriali, militari, scienziati, ricercatori universitari, leccapiedi tipo i debunkers, come amano definirsi, che scrivono dappertutto e che telefonano, chiamano e avvertono che io sono un truffatore, tutte queste persone sono in diverso modo interessate. Noi vediamo che per esempio sui nostri siti ogni volta che noi tiriamo su qualche notizia di importanza abbastanza così difficile da digerire per le istituzioni, abbiamo le visite del Ministero dell'Interno, del Ministero della Presidenza del Consiglio, Ministero della Giustizia, Comando Generale dei Carabinieri. Questo che cosa significa? Se noi fossimo dei fantasiosi tutori non ci considererebbe nessuno, invece siamo seguiti istante per istante con queste persone che hanno dei logs, delle visite che durano 10, 16, 24 ore, che quindi si danno il cambio l'uno con l'altro e che continuano a seguirci perché evidentemente rappresentiamo per loro un pericolo. Bene, Rosario, prima di andare in pubblicità, ecco, io volevo dire soltanto una cosa: quali migliori testimoni e testimonianze vengono dal mondo dell'agricoltura, dai contadini, i quali affermano tranquillamente, asseriscono che il terreno non è più, non produce più, non è più fertile. E loro sono sempre costretti ad acquistare queste sementi lavorate, trattate in laboratorio, perché quelle prodotte nel loro terreno l'anno dopo non producono effetti, non producono quindi raccolto. Quindi, ti rispondo, poi passare alla pubblicità. Certo. La cosa importante laddove si possa è coprire le coltivazioni. E infatti, infatti. Allora andiamo in pubblicità, un altro brano musicale, sempre con Rosario Marciano qui a Radio MPA. A tra poco. Radio MPA 19.38, questo è Radio MPA e siamo in compagnia di Rosario Marcianò, stiamo parlando di Scechimi, che è tutto quello che ruota intorno. Ritorniamo in diretta, Rosario, da te con alcune domande che i nostri amici della rete ci stanno rivolgendo. E allora, innanzitutto Ivana Manino ci chiede quali sono le caratteristiche chimiche, ovviamente da spiegare alla gente che ci ascolta, di un cielo chimico e come fa la gente comune, per l'appunto, a distinguerlo da un cielo naturale. Beh, la domanda è molto, molto ben posta ed è importante. Intanto quando ci viene detto dai meteorologi che abbiamo una giornata serena senza nessuna nuvola, loro li chiamano senza nessuna nube in cielo, il cielo sarà completamente pulito, ciò significa già che durante la notte ci sono state delle attività di aerosol clandestine, ovvero sia sono stati dispersi in atmosfera elementi chimici, elettroconduttivi ed igroscopici, ovvero sia che asciugano l'umidità e che quindi hanno demolito, hanno completamente distrutto la nuvolosità normale, naturale, che noi una volta conoscevamo come nubi da bel tempo o cumuli. I cumuli comunque, già che rappresentano un quantitativo notevole di umidità, sono i primi ad avere la peggio dopo la dispersione di elementi igroscopici, per cui vengono adesso molto più intelligentemente da parte dei militari distrutti durante la notte per evitare di dover macchiare, sporcare i cieli tutti i giorni, adesso che molte persone ci fanno più attenzione. Quindi nelle giornate di alta pressione sarà facile trovare un cielo leggermente azzurrino la mattina, che col passare delle ore in mattinata diventerà sempre più bianco per via della dispersione di questi metalli che non riflettono più la luce nelle frequenze tipiche del blu del cielo pulito, e vi sarà la completa assenza di nuvolosità naturale. Fino a qualche anno fa invece i militari intervenivano verso le 8:30, alle 9 di mattina, distruggendo nell'arco di un'ora tutte le nuvole che si erano formate. Ripeto, adesso in maniera molto più furbesca distruggono la nuvolosità naturale durante la notte, di modo che alla mattina il cielo sarà già tutto pulito, senza nemmeno una nuvola, e artificialmente sereno. Durante invece le giornate di bassa pressione, e quindi quando sono in arrivo delle perturbazioni importanti, ecco che lavorano d'anticipo, con circa 16, 24, 36 ore d'anticipo, attraverso l'impiego di scie di tipo persistente, mentre, torno un attimo indietro, nelle giornate di alta pressione vengono usate scie di tipo non persistente, sempre a bassa quota. Bassa e media quota significa che non superano mai i 2.000-2.300 metri di quota, e poi dirò perché. Dicevo, questi strati protettivi, igroscopici, che andranno a coprire il cielo completamente, vengono spiegati dai meteorologi dell'Aeronautica Militare Italiana come copertura nuvolosa che comunque non porterà a precipitazioni. Loro lo sanno benissimo perché, queste coperture si vanno a mischiare alla perturbazione in arrivo e la rendono spesso e volentieri, almeno per quanto riguarda alcune zone, innocua. Quindi o pioverà una pioggia stitica con quattro gocce sporche, oppure non pioverà per niente. Mentre potrà succedere, come è successo in passato, che in altre zone si possano verificare delle cosiddette bombe d'acqua, comunque temporali violenti, o grandinate con chicchi di grandine estremamente grossi, che sono tipicamente, diciamo, di origine da aerosol clandestini. Quindi se ci sono grandinate con chicchi di grandine estremamente grossi, questi possono essere una diretta conseguenza delle irrorazioni all'interno delle nubi imbrifere, le nubi che porterebbero pioggia. Perché lavorano a bassa quota? Se tu intanto mi fai un'altra domanda, poi ci arrivo. Certo, Chemtrails Trieste, come giustificano i militari il passaggio di tutti questi aerei in tempi molto ristretti, proprio repentini, l'un dall'altro? Ma intanto i militari diciamo che fanno orecchio da mercante, quindi quando vengono fatte delle segnalazioni dirette ti rispondono ni o comunque sono molto evasivi, perché chiaramente non possono giustificare la presenza di aerei che non sono identificabili da radar, e che lo stesso sindacato dei controllori di volo qualche anno fa lamentò essere aerei pericolosi per il volo civile tradizionale, in quanto che sono aerei senza piano di volo che non rispondono alle richieste dei controllori di volo e che quindi però hanno il permesso di volare grazie a un trattato che è stato firmato da tutti i paesi europei e anche dall'Italia nel 2003, che si chiama Cieli Liberi, Open Trade Sky, qualcosa del genere il titolo in inglese, dove si dice che aerei che non hanno piano di volo, che comunque sono aerei che non appartengono alla nostra aviazione civile o militare, hanno il permesso di volare e di fare quello che vogliono sui nostri cieli. Questo, diciamo, è un altro di quei trattati che servono per coprire le operazioni di aerosol clandestine, ACC e chimiche. Vai avanti. Dimmi pure. Sì, ancora Carmelo Nicolosi ti chiede perché la totalità dei siti meteorologici sono compatti nel disconoscere scie chimiche. Perché la meteorologia in generale è comunque succube del diktat dei militari, ma soprattutto in Italia, laddove i centri meteo sono controllati, gestiti dall'aeronautica militare italiana, tant'è che per esempio la RAI ha i suoi servizi meteo quotidiani sia su tutti i canali RAI che sono gestiti, ma tante volte anche diretti e presentati da militari con le stellette. E la RAI è costretta anche a pagare un canone ai militari per questi servizi meteo, per usare un eufemismo, completamente inesatti, laddove vengono presentate per esempio previste velature per i giorni successivi al servizio meteo. Queste velature Bernacca, il nostro colonnello Bernacca, Bonanima, che presentava il meteo 20-30 anni fa, non le conosce nemmeno, perché le velature sono nate con le operazioni di aerosol clandestine e sono queste coperture igroscopiche e elettroconduttive che servono a fungere da una sorta di rete elettrica che possa distribuire il segnale dei satelliti alle quote inferiori. Apro una parentesi. La quota di volo casualmente, anche qui, dei droni, cioè gli aerei senza pilota, e ricordiamoci che gli aerei militari che sciano, tra virgolette, che spruzzano le loro belle schifezze a bassa quota sull'Italia, ma anche in buona parte del mondo lavorano a bassa quota, questi aerei sono senza pilota. Sono comunque droni, anche laddove il termine tecnico drone è abbinato al classico drone che va a bombardare oppure a controllare le zone di guerra come l'Afghanistan, la Libia e compagnia bella. Questi droni, dicevo, hanno la quota classica di volo a 1600 metri circa. Ora, loro, i militari, usano questi droni a queste quote specifiche perché chiaramente la quota per il sorvolo, per lo spionaggio in quota e compagnia bella non può essere effettuato da quote elevatissime, a meno che non si hanno attrezzature particolari. I droni usano questa quota tipica, che è casualmente la stessa quota di sorvolo degli aerei che rilasciano queste velature innocue, che vengono definite così dai centri meteo, elettroconduttive e che servono da rete elettrica al fine di poter distribuire i segnali dei satelliti a tutto il sistema di droni e di altre apparecchiature e attrezzature militari che hanno bisogno di trasferimento dei segnali radar, sommergibile, velivolo in quota, satellite. Questi satelliti ovviamente entrano in gioco nella questione dei droni perché i droni vengono controllati da satellite. È vero che a terra abbiamo una serie di piloti che controllano con joystick e con i loro schermi un tot numero di droni, ma i droni a loro volta possono e devono essere per forza necessariamente controllati via satellite, e per superare le distanze limite che si hanno nel trasferimento dei segnali da terra e da satellite a drone c'è bisogno di uno strato elettroconduttivo che appunto quotidianamente viene steso in atmosfera altrimenti i sistemi militari non funzionerebbero più. Rosario, abbiamo un sacco di domande, alcune molto molto intelligenti, interessanti, le voglio far passare tutte, ovviamente daremo delle risposte sintetiche a tutte quante, però adesso ancora un passaggio pubblicitario, abbiate pazienza, questa è una radio libera e che si regge senza contributi dello Stato, senza i contributi massonici e che quindi libera, fa parlare liberamente chi come Rosario Marcianò ha da dire delle cose interessanti, però noi ci reggiamo così, quindi abbiate pazienza, a tra poco su Radio MPA. Spot. Radio MPA è il modo più efficace per raggiungere tantissime persone con il messaggio pubblicitario. Chiamaci per un preventivo personalizzato. Radio MPA 0828 99 40 70 oppure sul web www.radiompa.it. Sono 9.53 di nuovo in diretta con il nostro caro amico Rosario Marcianò, stiamo parlando alla grande con il problema delle scie chimiche, tante domande. Rosario, ritorniamo in trasmissione con quella che ti rivolge Giorgia Piras, che dice come agire per passare ora alla fase dell'azione. Lei dice che è un modello di denuncia che si potrebbe far girare per appunto denunciare, ci direi tu a chi appunto questo stato di passività. Ricordiamo che ci sono state anche tante interrogazioni parlamentari alle quali però non c'è stata risposta. Sì, la via legale sembra, per quanto la via legale dovrebbe essere la più efficace, purtroppo ci scontriamo contro un muro che è quello della magistratura che fa finta di niente, perché dobbiamo renderci conto che questo sistema è estremamente permeabile a quelle che sono le doglianze legittime dei cittadini, lo si è visto anche per esempio nel caso delle mortali onde elettromagnetiche emesse dal Vaticano, quindi da Radio Vaticano, che purtroppo è un processo che è finito nel nulla con delle scuse banali, tanto per dirne una. Ma per tornare al nostro discorso, noi anche abbiamo preparato un modello per una denuncia. Bisogna sapere che in Italia le class action non sono concesse con lo stesso sistema legislativo statunitense, quindi per quanto anche qui vengano dette class action, bisogna sapere che queste possono essere intraprese contro associazioni, contro aziende, da parte di associazioni costituite come per esempio l'associazione ai consumatori, ma contro aziende e non contro lo Stato, e quindi l'unica carta che rimane è la singola denuncia esposto, che può consegnare un singolo cittadino alla procura di zona. Sul nostro blog www.tankereni.com a destra c'è un link che porta all'articolo con la nostra denuncia tipo. È chiaro che i personaggi che andrebbero denunciati dovrebbero essere tanti, perché, tanto per fare un esempio, gli stessi meteorologi che ci prevedono le innocue velature sono perfettamente al corrente di quello che sta succedendo, perché se lo so io, che sono un comune geometra con tutta la sua incommensurabile ignoranza, vorrei sapere come fanno questi colonnelli e questi generali e questi maggiori dell'aeronautica a non sapere cosa sta succedendo nei nostri cieli. Per cui teoricamente andrebbero denunciati l'ENAV, l'ENAC, diversi meteorologi che presentano in TV le loro innocue velature, c'è un elenco infinito, c'è solo da sbizzarrirsi nel denunciare diversi soggetti, però certo. Ripeto, purtroppo è un tentativo che ognuno di noi può fare, sempre però sapendo, consapevoli, che la magistratura sicuramente in questo caso finge di non aver ricevuto nessun esposto. Bene, Rosario, vado dopo, noi non possiamo fare altro che continuare a informare la popolazione sperando in una svolta che possa essere così efficace. Sotto quali aspetti non te lo so dire o non te lo posso dire, però sicuramente legalmente qua non se ne esce, perché ci scontriamo contro un muro di omertà e di occultamento della verità totale. Certo, vado veloce Rosario, allora Ian numero 6, che ti saluta tra l'altro affettuosamente, dice che c'è il sospetto che venga utilizzato il solfuro di cadmio, questo componente ha vantaggi di geoingegneria, spieghiamo, e aumenta la resistenza elettrica, questo a tutto favore, a tutto vantaggio del sistema ARP. C'è una prova che noi abbiamo e che si collega anche a una spiegazione che posso dare in relazione alle polveri sottili, è che quando abbiamo fatto un prelievo di polvere all'interno di un velivolo Ryanair abbiamo trovato casualmente, sopravvissuto al filtraggio EPA dell'aria all'interno della cabina, abbiamo trovato alluminio, bario e cadmio. E questo in quota, perché comunque bisogna tener conto che gli additivi particolari, e quindi non è che ci sono degli spruzzatori o chissà che, se non in casi rarissimi, ormai vengono usati particolari additivi possano appunto utilizzare trimetilalluminio, bario ed altre sostanze ed altri elementi e metalli pesanti, vengono spruzzati in quota elevata dagli aerei di linea, non tutti ma quasi tutti, e a quote basse, laddove corrono in questa sorta di tappeto elettroconduttivo i droni, che altrimenti non potrebbero correre e volare a elevate distanze, ci sono i militari che chiaramente usano velivoli mascherati da aerei di linea. Quindi la gente pensa che si tratti di aerei di linea, ma non lo sono. Ma perché queste polveri sottili sopravvivono ai filtri EPA addirittura? Perché sono usate a livello nanometrico, sono particelle di alluminio e di altri metalli che vengono disperse a livello nanometrico e che quindi sopravvivono al filtraggio dei filtri di depurazione, e questo è anche un grosso problema perché prolungano così l'esposizione anche in ambienti chiusi. Noi abbiamo potuto avere la conferma con questo analizzatore di polveri sottili perché se non viene operato un filtraggio adeguato dell'ambiente chiuso, l'ambiente all'interno dell'abitazione alle volte è addirittura ancora più inquinato di queste nanoparticelle, di queste nanopolveri che vengono misurate in micron per metro cubo, è ancora più inquinato dell'ambiente esterno. Abbiamo potuto anche avere la dimostrazione, rispetto alle intuizioni che avevamo avuto, che queste nebbie di ricaduta, che spesso puzzano di zolfo o di cherosene, non sono altro che anche una presenza conclamata attraverso il rilevamento con l'analizzatore di polveri. E l'aumento notevole di queste nanopolveri si ha proprio quando si formano queste nebbie da ricaduta successive alle attività di aerosol clandestine della giornata. Quindi c'è un diretto collegamento tra le nebbie chimiche che vengono spacciate per nebbie da umidità, quando l'umidità non c'è o è bassa, e invece sono nebbie composte da nanoparticolato neurotossico che può provocare a breve termine problemi respiratori, asma, allergie, tosse secca e altre amenità di questo genere, ma che a lungo termine può provocare linfomi, mielomi, tumore al polmone, Alzheimer, Parkinson, SLA e via dicendo. E quindi ce n'è per tutti. C'è una bella varietà. Può morire con diversi tipi di malattie grazie ai militari e a coloro, anche in ambito civile, che continuano a coprire queste operazioni criminali. È vero, c'è una bella varietà. E senti, l'hai annunciato tu, ma anche Emanuele Sabatino, un altro nostro amico della rete, ci chiedeva appunto di questo rilevatore di polveri sottili. Ecco, voleva sapere le prime impressioni, e io ci aggiungo appunto il costo, come viene usato, come si deve utilizzare. Beh, la cosa più importante da fare è creare uno screening, fare una serie di analisi di rilievi in diverse zone e soprattutto privilegiando le zone non inquinate, perché altrimenti chiaramente possiamo essere ingannati dall'inquinamento dovuto al traffico cittadino o ad altre fonti di inquinamento. Sanremo, per esempio, per nostra fortuna, almeno per ora, è una città dove non ci sono inceneritori o fabbriche o altre fonti di inquinamento che provocherebbero nanoparticolato in atmosfera, quindi andando a scremare logicamente, se togliamo il traffico cittadino, queste polveri arriveranno da qualche parte. E siccome c'è una ciclicità nel ritrovamento di queste polveri sottili, per esempio, banalmente, se io eseguo un rilevamento delle polveri in una zona, in una zona oraria, in una fascia oraria ad elevata densità di traffico, ma in una giornata dove non ci sono operazioni di aerosol clandestine, l'inquinamento è molto basso, molto ma molto al di sotto dei limiti di legge. Se invece nella stessa ora io effettuo un altro rilevamento delle polveri sottili in una giornata di attività di aerosol clandestina a cascie chimiche, ecco che il numero delle nanopolveri, e quindi partendo dai PM10 in giù, aumenta in maniera considerevole fino ad arrivare alla zona di allarme sanitario, quindi superando i limiti di legge. È chiaro che c'è a questo punto un diretto collegamento tra le nebbie di ricaduta e le attività di aerosol a bassa quota. Ecco perché nell'arco delle poche ore si formano le nebbie, e queste nebbie poi, oltre a puzzare, ad essere particolarmente visibili, sono anche misurate dallo strumento, che ci conferma che non avevamo solo un'impressione basata così su fantasie complottiste. E infatti, senti, chiudo con questa, poi andiamo al GR e poi andiamo anche alle conclusioni di questo spazio che abbiamo avuto questa sera con te. Sempre Ian numero 6 mi ha ricordato una cosa, si legge tantissimo, non sappiamo se è una leggenda metropolitana o altro, comunque tanti indicano appunto l'aceto come, la bottiglia dell'aceto aperta, come un possibile così... Intanto saluto Ian numero 6. È vero che quest'aceto fa queste cose miracolose? Le persone cercano di trovare ingenuamente delle soluzioni che chiaramente da un punto di vista scientifico non possono avere nessun tipo di riscontro. È come se io volessi colpire una moneta da un cent a 5 milioni di anni luce di distanza, cioè come faccio a interagire con una bottiglia di aceto su un vasto raggio di chilometri quadrati di dispersione aerea. Tra l'altro poi potrei interagire teoricamente su un determinato tipo di metallo, ma non posso interagire su altri tipi di metalli e per esempio sui nanopolimeri che vengono dispersi, perché per esempio molti avranno notato che le scie vengono disperse solitamente in direzione del sole, e quindi le scie seguono sempre l'andamento del sole durante la giornata. C'è un motivo, perché in alcune operazioni militari vengono rilasciati dei polimeri che possono esplodere, cioè esplodono, si aprono e rilasciano nanostrutture intelligenti, cosiddetta smart dust o MEMS, micro electromechanical sensors, solo se dirette rispetto alla luce ultravioletta, e che quindi devono queste scie necessariamente essere dirette verso la luce del sole. Questi polimeri logicamente non possono essere distrutti da bottiglie di aceto o cose di questo tipo. L'iniziativa è simpatica, però certamente ha portato più una soluzione, ha portato la nostra opera di informazione anche a un po' di ridicolo, perché queste iniziative, per quanto lodevoli, sono spesso usate come frecce avvelenate da parte della disinformazione per fare tutta un'erba in fascio, e quindi spesso e volentieri si è detto che l'idea dell'aceto l'ho tirata fuori io, quando invece non è una leggenda, è una leggenda. Va bene, comunque Rosario, scie chimiche, sistema ARP, MUO, hai sentito ultimamente questo 7.5 in Canada, proprio dalle parti della centrale, dell'antenna ARP posta lì, quindi questo terremoto. Ho sentito qualcosa, ma non ho delle notizie. Non abbiamo delle notizie certe. Perché diciamo queste emissioni elettromagnetiche interferiscono con gli apparati di bordo. Tant'è vero che per esempio non ci fanno usare il cellulare a bordo degli aerei. E infatti. C'è da riflettere su tante cose. E allora, noi andiamo col GR, a questo punto andiamo col GR e ritorniamo soltanto per i saluti, Rosario. tanti amici che si sono aggiunti. Mi dispiace che purtroppo una fetta di questi amici ci ha abbandonato, ma dobbiamo capire, io su questo ringrazio lo spunto che mi ha dato Domenico Mandia, dobbiamo capire che la battaglia è unica, il fronte deve essere unito, non dobbiamo disperdere le forze. Quindi io ascolterò altre 100 radio sparse in tutta Italia che tratteranno questa materia, che faranno intervenire in trasmissione diretta persone, personaggi come te, come Rosario Marcianò. Va bene, e allora, pubblicità, GR e poi ancora con i saluti di Rosario. A tra poco. Bene, allora ritorniamo alle 20:15 in trasmissione per giusto per i saluti con Rosario Marcianò. Allora Rosario, bello scambio di battute, bella informazione come sempre la tua, esaudiente, esaustiva. E allora a questo punto che cosa consigliare alla gente? Di informarsi, di non stare soltanto lì davanti agli appuntamenti medio in TV, di non ascoltare soltanto quello che dicono i mass media? Io direi accendere il cervello e spegnere la televisione. Infatti. Va bene, allora sì. Questo è in sintesi, però logicamente al di là delle battute, noi comuni cittadini abbiamo poche carte. Intanto con questa battaglia da prostitute che stiamo vedendo, alla quale stiamo assistendo in campagna elettorale, possiamo ben osservare che tutte le promesse sono sempre promesse da mercante e che i nostri politici vogliono solo mantenere la poltrona ben salda sotto il sedere. E oltre questo non ci sono altre possibilità. Io non vedo alcuna forza politica che abbia voluto affrontare la questione e nemmeno nel programma elettorale si è sentito niente del genere. Quindi già per questo motivo, al di là di tutti gli altri motivi che chiaramente possono indurci a dubitare dei politici e delle varie fazioni politiche, chiaramente non vedo delle possibilità grandi da un punto di vista della politica e quindi della soluzione che parta dall'alto o da risposte da altre domande. Quindi come al solito noi dobbiamo fare come l'esercito di scimmie e quindi dobbiamo continuare a informare la popolazione e a far sì che questa diventi una consapevolezza di tale immensità, di tale rilievo, che nessuno potrà in futuro ancora continuare ad ingannare la popolazione, i nostri bambini nelle scuole, la gente con la pubblicità e con i film e con i telegiornali e via dicendo. Dobbiamo arrivare ad un punto di rottura, insomma, e questo punto di rottura non si può avere se rimaniamo una nicchia di informazione alternativa, ma dobbiamo fare presa sulla popolazione nella maniera più grande e più forte possibile. Bene, allora ti ringrazio Rosario, grazie ancora e ovviamente ci diamo appuntamento alla prossima occasione, sempre qui in Radio, Radio MPA. Grazie a voi tutti, buona serata e buon lavoro. Grazie, ciao.